reportage. Italiani e europei nello spazio. Le nuove sfide oltre la Luna. Di Nazareno Orlandi. Mi sono stati regalati 30 giorni in più o meno, in realtà non si sa ancora, ma diciamo almeno un mesetto in più sulla stazione spaziale. Un po' devo dire ci speravo, era una cosa che era nell'aria dopo ahimè l'incidente della Progress. Insomma sono felicissima di poter restare un altro po' più di tempo qui a bordo della stazione spaziale. Base terra, qui tranquillità. Samantha supera tutti. Il rientro rinviato per il fallito lancio del cargo russo Progress, disintegratosi nel Pacifico, la renderà l'astronauta italiana rimasta più a lungo nello spazio. Se verrà il momento di raccontare tutto, non saprò spiegarvi questo forte silenzio. Non saprò spiegarvi questo forte silenzio. Prima di Astro Samantha, 6 italiani avevano violato l'atmosfera, varcato i limiti umani, galleggiato senza gravità. Un viaggio oltre i confini che continua ad affascinare, un sogno per tanti, soprattutto quando si è bambini. Non più uomini solitari, ma star della rete, gli astronauti. Quelli italiani hanno volato negli ultimi anni all'interno del corpo astronautico dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. L'Italia sta assumendo un ruolo sempre più centrale in ambito europeo e internazionale. Il perché lo spiega il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. Il corpo spaziale europeo contiene 4 astronauti italiani su un totale di 10, una decina, quindi la parte più importante del corpo spaziale europeo. Il motivo è molto semplice: l'Italia, avendo realizzato quasi il 50% delle parti abitabili della stazione spaziale internazionale, ha un rapporto diretto con la NASA oltre che con l'ESA per avere opportunità di volo, quindi di fatto noi possiamo far volare più volte gli astronauti rispetto ad altri paesi. E stiamo adesso ragionando sulle prossime 2 missioni, una con la NASA, una via ESA, proprio che faranno in qualche modo rotazione sugli astronauti a disposizione. Ma non solo, un contributo di innovazione arriverà anche con il progetto DREAMS, uno strumento per la misura meteorologica del clima su Marte, che come rivela Battiston verrà lanciato con il programma ExoMars 2016. La prima missione europea che atterrerà su Marte è uno strumento fatto dalle università e centri di ricerca italiani, in particolare il CISA di Padova, consegnato recentemente per l'inserimento e il montaggio all'interno dello spacecraft, del satellite che viaggerà alla volta del pianeta rosso nel 2016. L'Italia, oltre a mandare strumenti robotici su altri pianeti, ha un programma molto poderoso, molto forte di sviluppo del lanciatore nazionale Vega. All'ultima ministeriale del 14 abbiamo approvato lo sviluppo di questo lanciatore per farlo crescere ulteriormente come elemento centrale della famiglia dei lanciatori europei. Ground control to Major Tom. Franco Malerba è il primo italiano che ha realizzato il sogno. Lo ha fatto nel luglio del 92, è decollato mentre l'Italia era in ginocchio, straziata dalle bombe di Palermo e travolta da Tangentopoli. A quasi 70 anni guarda al progresso scientifico con l'entusiasmo di un ragazzino. Fare soltanto colui che fece non è particolarmente produttivo. Quindi attualmente io lavoro su dei progetti che tra l'altro riutilizzano le tecnologie del cavo nello spazio, che fu protagonista nella nostra missione nel 92, questa volta udite udite per catturare spazzatura spaziale, perché ormai nello spazio abbiamo una certa densità di oggetti indesiderati e pericolosi. Lavoro con un paio di aziende italiane che collaborano con l'ESA, con l'Agenzia Spaziale Europea. Si tratta di lanciare una rete sull'oggetto che si vuole togliere di mezzo. Naturalmente detto così sembra semplice, è un po' più complicato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, main engine ignition, all 3 engines up and burning, 2, 1, and lift off of the space shuttle Atlantis. Oggi ci sono dei mezzi di comunicazione molto più potenti. Brava Samantha, che riesce attraverso i suoi tweet, le sue teleconferenze, i suoi Facebook, a essere molto più presente assieme a noi e a raccontarci le cose meravigliose che sta facendo. Anche un'altra differenza che è che la nostra missione era breve. In una missione breve le attività sono densissime, perché bisogna sfruttare al massimo quel tempo che ci è concesso. Siamo però in collegamento la navetta spaziale Columbia. Il fatto di aver perso lei è sicuramente un brutto colpo, è stata una brutta sorpresa. Nonostante tutto, la missione ha avuto abbastanza successo in termini di dati scientifici che abbiamo potuto ottenere. Abbiamo ascoltato la voce di Umberto Guidoni. Nel 1996 ha volato con un altro italiano, Maurizio Cheli, che ci racconta le sensazioni dei suoi 15 giorni in orbita. Mi sento sicuramente un privilegiato, molto fortunato. Sono contentissimo di aver fatto questa esperienza, perché è in effetti un'esperienza che ti cambia la vita, ti cambia il modo in cui tu guardi alla tua vita. Vivere nello spazio è un'esperienza unica che auguro a tutti. Vedo con buon occhio il fatto anche dei voli commerciali, perché da accesso a tante persone. Ovviamente in questo momento è qualcosa di molto costoso, però come è successo per i voli transatlantici, poi sicuramente diventerà qualcosa di molto più accessibile, e questo permette veramente di capire quanto fragile sia il nostro pianeta e di quanto bisogno ci sia che ce ne occupiamo. Tra i voli commerciali, il programma Virgin Galactic di Richard Branson è quello di cui si è parlato di più. Ovviamente non si va in orbita con questi voli, si fa un volo suborbitale a una distanza di circa 100-110 km dalla Terra, ma si ha già modo di apprezzare sicuramente la curvatura della Terra e di vedere il pianeta da un'altra prospettiva. Per volare con Virgin Galactic si tratta attorno a 200-250 mila dollari. Cifre non certo accessibili alla stragrande maggioranza della popolazione, ma per godere dello spettacolo, per provare a immedesimarsi negli occhi degli astronauti, fino al 10 gennaio 2016 resterà a Milano la mostra La Terra vista dallo spazio, al Museo della Scienza e della Tecnologia, museo dove è conservato anche un frammento di roccia lunare originale, unico in Italia. Il direttore Fiorenzo Galli sulla mostra. È realizzata con l'Agenzia Spaziale Europea, sono immagini bellissime che raccontano, con particolare riferimento a logiche di tipo ambientale e anche agricola, no? Perché siamo a Milano, c'è l'Expo, quindi queste sono state scelte come immagini proprio in questa logica, come il terreno, come il territorio, come il pianeta sia di una meraviglia straordinaria. Le immagini sono proprio belle anche esteticamente, e c'è la possibilità di avere comprensione di fenomeni che riguardano tutti noi. Questo, ecco, la vera ragione, no? di soddisfazione è quella di riuscire a realizzare ancora una volta un ponte fra delle conoscenze che non devono rimanere per gli addetti ai lavori e la gente, che deve realizzare invece una cittadinanza scientifica. C'è poi chi lo fa di lavoro, osservare la Terra dai satelliti. È il caso di Simonetta Cheli, capo dell'ufficio di coordinamento dei programmi di osservazione ESA-ESRIN, con sede a Frascati, che ci ha parlato delle loro principali attività. Un occhio diverso, una visione diversa di quello che è il nostro pianeta, visto dai satelliti, una visione che chiaramente è una visione globale, i cambiamenti climatici, i cambiamenti e le evoluzioni delle foreste, il tema dell'agricoltura, che oggi è il tema dell'Expo qui a Milano. Per il terremoto del Nepal è stata attivata attraverso l'ESA un gruppo di agenzie, che sono 15 nel mondo, spaziali. Coordinamento tra le varie agenzie del mondo ha permesso in poche ore di fornire delle mappe di supporto su quello che era il danno subito, su quelle che erano le situazioni delle costruzioni, ad esempio a Kathmandu. Sicuramente l'Italia è un paese bellissimo, visto da qua sopra, dalla cupola, è assolutamente stupendo. Questa è la voce di Paolo Nespoli nello spazio nel 2007 e poi di nuovo nel 2010. La sua doppia esperienza l'ha raccontata in un libro che si chiama Dall'alto i problemi sembrano più piccoli. Ci dice la sua sulle nuove sfide della scienza. Noi tendiamo a vedere la Terra col naso spiaccicato per terra e quindi non abbiamo una visione d'insieme, ci perdiamo in questo bicchierino. Invece quando ti tiri indietro, la vedi da lassù, vedi che le cose sono diverse, vedi le cose in modo diverso. Io sono assolutamente sicuro che andremo su Marte, ora è una questione di tempo. Quando e come si vedrà. Cominceremo a capire come fare viaggi nello spazio di lunga durata, perché andare su Marte è complesso, difficile oggi, ma è quasi dietro l'angolo. Come facciamo ad andare sulla stella più vicina a noi? Ci vogliono centinaia di migliaia di anni di volo con le nostre navicelle che abbiamo adesso. Quindi dovremmo inventare qualcos'altro e continuare questa scoperta. È stato il primo italiano a eseguire una passeggiata spaziale fuori dal veicolo. È con noi Luca Parmitano. Milano. E poi c'è Luca Parmitano, il primo dell'era social, il più conosciuto tra le giovani generazioni. Tanti anni fa, io parlando con Maurizio Kelly o comunque seguendo le loro imprese, ho sentito una scintilla che poi fece divampare in me l'incendio della passione, l'astronautica, dello spazio e del volo. Quello che penso è che se anche uno solo dei ragazzi che mi ascoltano un giorno vorrà seguire la carriera della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, beh, allora ho fatto bene il mio lavoro. La nuova frontiera è quella che ancora non abbiamo visto, perché Marte è lì, lo vediamo da millenni, ed è una frontiera che vogliamo e dobbiamo raggiungere, e poi ce ne sarà sempre un'altra da scoprire. Passo dopo passo, il paese di Leonardo e Galileo vuole continuare a fornire il proprio fondamentale contributo. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.